Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Non ci si annoia veramente mai, dite la verità. Poi qual è il problema? Che sono talmente tante le cose che succedono, così variopinte, diciamo, che quando si arriva poi al punto, il sabato, qui con me, con voi, con Non ci sono più le mezze stagioni, quasi si ha difficoltà a dire: dunque, fammi pensare qual è la notizia sulla quale vorrei dire la mia questa settimana, nel chiudersi di questa settimana. Io penso che molti di voi, in particolare in questi giorni, una notizia in testa, specifica, ce l'avranno. Sempre con molta libertà, naturalmente, al numero verde 800 24 0024, per chi lo sa, per chi non lo sa lo dico comunque, siamo sempre insieme fino alle 15, però cominciate subito a carburare, che poi sapete che verso la fine comincio a correre, i tempi si restringono un po' inevitabilmente. Però rito d'inizio, che non è quello che qualcuno ha nominato in questi giorni, il rito d'inizio è quello in cui vi confermo ogni volta da una notizia della settimana che effettivamente non ci sono più le mezze stagioni. Ebbene, questa settimana il fatto che mi fa pensare che effettivamente le cose stiano così è che in Gran Bretagna il nome più diffuso non è più Jack. Voi prima andavate a Londra o in qualsiasi posto della Gran Bretagna, ehi Jack, e subito si girava qualcuno, andate proprio a colpo sicuro, qualche Jack da qualche parte c'era. Adesso invece il nome più diffuso è Mohammed. Mohammed, e questo è proprio un segno dei tempi, no? Nel senso che evidentemente tanta la migrazione, l'immigrazione, il multiculturalismo, che questo è diventato il nome più diffuso. In realtà non appare quello femminile, evidentemente le donne si chiamano ehi tu, una cosa del genere, poi così, una cosa, insomma, le donne si chiamano in questo modo, quindi non appare nella classifica dei nomi inglesi quello femminile più diffuso, meno diffuso, però quello maschile è Mohammed. Quindi grosso segno dei tempi. In Italia sarebbe interessante anche vedere in Italia in questo momento qual è il nome più diffuso. Non abbiamo questo numero così forte, sostanzioso di immigrati, anche se mi pare gli ultimi dati, forse proprio di questa settimana, parlavano di 5 milioni in Italia, almeno quelli che sono non clandestini, insomma quelli legali. E dopodiché direi invece, sempre per confermarci che non ci sono più le mezze stagioni, lo devo dire, se avete davanti o avete modo di vedere la prima pagina del Corriere della Sera, c'è questa bellissima foto centrale con un orso bianco che si vede arrivare incontro una slitta con dei cani, invece di azzannarli come sarebbe purtroppo abbastanza naturale, cosa fa? Se li abbraccia come fossero dei peluche, un orso lì sperso nel polo in mezzo ai ghiacci. La cosa più istintiva che trova da fare con questi cani che vanno incontro è di abbracciarli. È bellissima questa foto. Meno male che non ci sono più le mezze stagioni anche in questo senso. E poi vi voglio ricordare a malincuore, scusatemi, che questa notte, nel passaggio tra stanotte e domani, si torna all'ora solare. Io non so se a voi faccia piacere, a me personalmente no, però vi ricordo che alle 3 di notte dovete spostare indietro di un'ora, quindi svegliatevi alle 3 di notte puntuali, quindi, no, ovviamente potete metterlo indietro molto prima, però si mette indietro di un'ora e insomma ritornerà il 27 marzo 2011. Chi vuole già pensarci, chi vuole già avere questa aspettativa, è il 20 marzo 2011 che ritorna all'ora legale. Però che cosa mi fa arrabbiare? Che vedo queste ricerche inglesi, vedevo ieri, tenere l'ora legale e non cambiarla con quella solare, come invece ci apprestiamo a fare questa notte, ci renderebbe tutti più sani. Allora dico, che cavolo, allora che cosa la cambiamo a fare? E quanto afferma questo nuovo studio pubblicato dal British Medical Journal, mica un giornalino qualunque, insomma, secondo il quale se questo fine settimana le lancette dell'orologio non venissero spostate indietro di un'ora, la gente sarebbe più attiva, oltre che più contenta, dico io. E poi questo ricercatore Meyer Illman, professore del Policy Studies Institute e autore della ricerca, sostiene che la salute e il benessere della nazione, in questo caso della Gran Bretagna, ma ovviamente anche a maggior ragione dell'Italia, che è decisamente più solare, tratterebbero un vasto beneficio, trarrebbero le persone un vasto beneficio dalle serate più lunghe, che spingerebbero la gente a intraprendere più attività all'aperto, non tutti che si rifugiano poi in casa, no? Secondo un altro studio condotto dall'Università di Cambridge, inoltre, non cambiare l'ora durante l'inverno farebbe risparmiare ai britannici 500.000 di tonnellate di emissioni di anidride carbonica l'anno. E un'altra ricercatrice parla di un studio che era già stato condotto negli anni 60, che aveva dimostrato che la luce nelle ore serali riduce il numero di incidenti incidenti mortali sulle strade. Allora, a questo punto, perché dobbiamo cambiare ora e rimetterla indietro all'ora solare? Vogliamo creare un movimento, magari anche solo una petizione, un movimento, uno sciopero dell'ora e tenerla, ma insomma, vedete un po' voi se avete voglia di parlare anche di questo, 800 24 00 24, e se no le tante altre notizie della settimana. Ma come di consueto è il momento di presentarvi quella che sarà il mio opinionista estemporaneo di oggi, che come sempre, ogni volta preso, pescato da un mondo diverso, da un percorso, da una formazione differente, mi aiuta e ci aiuta a commentare i fatti della settimana. Ospite opinionista estemporaneo, è stata una donna piuttosto particolare. Marta Marat. Salve, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, Marta. Marta Marat è una scrittrice esordiente. Sei maggiorenne, vero Marta? Sì, sì. Ah, ecco, 18 anni, no, perché non vorrei che qualcuno pensasse, no, guarda, proprio a fagiolo, proprio questa settimana. Ha 18 anni, Marta Marat, mi sono sincerata, studia al Liceo Classico a Roma, quindi sei ancora studentessa, Marta. Esatto. E hai cominciato il libro che è tuo di esordio, che è stato pubblicato in questi giorni da Cavallo di Ferro, è L'assassino nero, la saga di Esmeria. E tu, leggevo, che hai cominciato a scrivere questa saga quando avevi 13 anni. Sì, infatti ho cominciato a 13 anni. Ho cominciato proprio quel giorno, verso i 13 anni, a Natale, mi pare, a scrivere la prima pagina. E come mai ti è venuta questa... Vuoi diventare come J.K. Rowling, anche se forse al tempo, non so se... Forse sì, 5 anni fa già la conoscevi, no? La donna più ricca dopo la regina di Gran Bretagna, la donna più ricca d'Inghilterra, o come invece l'autrice Stephanie Meyer della saga di Twilight? Cioè, ti hanno in qualche modo condizionata? Vuoi diventare la donna più ricca d'Italia dopo Marina Berlusconi o... Cosa? Non ci punto realisticamente, non sarebbe male. Quindi i soldi, diciamo, anche a 18 anni hanno la loro importanza, almeno in prospettiva. Sì, anche perché ovviamente a 18 anni è il periodo in cui uno è preoccupato per le scelte universitarie, per la scelta nell'ambito lavorativo, quindi comunque i soldi ci pensa anche nella scelta dell'università, quindi è un po' un periodo in cui uno ci pensa, diciamo. Ecco, magari non poi parliamo della situazione economica del paese, delle prospettive per i giovani, della disoccupazione, insomma, che sono sempre piuttosto pesanti, no? Anche questa settimana. Però Marta, approfittiamo un attimo, poi mi dirai magari qual è la notizia che ti ha colpito di più questa settimana, dal tuo punto di vista di osservatorio di diciottenne. In cosa consiste questa saga? Chi sono i protagonisti di questa tua saga? Dunque, il protagonista è uno principale, che si chiama Ravul. Dice la parola stessa, sì. Sì. Sì. Ed è un personaggio del quale alla fine non si sa nulla, neanche lui sa nulla di se stesso. E tu? Tu sai qualcosa di lui stesso? Io penso proprio che sì. E anche questa è la cosa bella del libro, che lo scrittore sa tutto, nel senso è proprio padrone assoluto, quindi penso proprio di sì. E che cosa c'è di avvincente in questa? Qual è sempre la lotta tra il bene e il male? Che cos'è l'obiettivo principale, quello che muove il quid di questa saga? Dunque, alla fine non c'è, è vero, una lotta tra bene e male, ma non ci sono delle distinzioni nette. Nel senso, spesso nei libri, in particolar modo nel fantasy, ci sono bianco e nero, i personaggi buoni e i personaggi cattivi. Io credo che una cosa interessante di questo libro sia il fatto che il protagonista innanzitutto non è buono, non è assolutamente buono, ma non è neanche completamente cattivo. È interessante perché segue i vari cambiamenti di questo personaggio che si trova in mezzo agli eventi e alla fine finisce con essere cambiato da essi. Ma ti sembra che questo sia un po' rapportabile e trasferibile anche nella realtà? Ci sono i buoni e i cattivi, il bianco e il nero. Cosa ne pensi tu, Marta? Io penso che nessuno sia completamente buono o completamente cattivo, ovviamente uno non è mai neanche come appare. Io credo che il libro, i personaggi siano venuti fuori così dall'esperienza mia personale, credo che sia un po' quella di tutti, ovvero ho delle amicizie, poi quelle finiscono, scopro dei lati negativi di delle persone, ne scopro positivi di altri che invece pensavo fossero meno buoni o cattivi, diciamo. Quindi niente, ho provato a rendere i personaggi più realistici, perché anche nella realtà nessuno è buono o cattivo, ma neanche se ne rende conto dei propri comportamenti in relazione agli altri. Marta Marat, quindi adesso per passare invece alle notizie della settimana, cose piuttosto ponderose. Dimmi solo l'argomento, poi lo trattiamo dopo, di quella che è la notizia che in questi giorni ti ha colpita di più. Poi dopo l'approfondiamo. In questi giorni specificatamente, o non più ormai la storia di Sara, perché non può essere considerata negli ultimi giorni, quella mi ha stupito, diciamo, la settimana scorsa. Anche se gli sviluppi, insomma, continuano, adesso sembra che dagli ultimi rilievi biologici, no, che sono stati fatti dal RIS, che quantomeno non sia stata violentata, non ci sia stato il vilipendio del cadavere, insomma, come invece lo zio avrebbe confessato in un primo tempo, e quindi ancora si aspetta di capire se mai ci si arriverà, quale sia la versione, la verità definitiva. Ma quindi, se non è questo, qual è la tua notizia? È ancora da ragazza, specialmente, sì? Da ragazza che comunque entra nel mondo del lavoro e della società, anche se in maniera un po' diversa dal solito, con questo libro. Mi ha stupita, mi ha colpito particolarmente la storia di quella ragazza che alla fine il vero nome la chiamavano Ruby, poi Karima. Sì. Va bene, allora fermati un attimo, Marta, perché per riportarti invece un pochino indietro e mantenere ancora un po' una parte di qualcosa da cui ti stai staccando, ma non completamente perché hai solo 18 anni, ti parlerò di bambole. Di bambole perché è un articolo di questa settimana del Wall Street Journal, secondo il quale aziende produttrici di bambole in questi giorni, dopo varie approfondite ricerche, hanno scoperto, già quella è l'intenzione, poi, cioè, che probabilmente se le bambole crescono, le bambine ci giocano più a lungo, no? Tu giocavi con la Barbie o con qualche altra bambola, o magari con i soldatini, non so. Le bambole crescono? Sì, perché hanno intenzione di allungarle di qualche pollice, fra i 18 e i 21 pollici, cioè dovrebbero diventare queste bambole fra i 45 e i 54 centimetri. Quindi, sono inquietanti. Inquietanti, no? Perché le bambine poi riescono a identificarvisi di più se sono quasi alte come loro. Se rimangono la bimbetta lì della Barbie che metti in un taschino, secondo loro, a me pare un po' bizzarra come cosa. Tu ci avresti giocato più a lungo se fossi stata quasi alta come te la bambola? Assolutamente no, io penso che entrando in camera mia, magari nella penombra, una sera che sono stanca, mi vedo un essere di quelle grandezze che mi sarei preso un colpo. Avresti pensato di essere dentro la tua saga di Esmeria, un personaggio un po'... La bambola assassina. Vero, la bambola assassina. Mentre il titolo del libro di Marta Marat è L'assassino nero. Ma adesso cominciamo a sentire solo l'argomento di uno degli ascoltatori, Marta, al numero verde 800 24 0024, Leonardo da Ferrara. Se mi dici giusto l'argomento e poi lo approfondiamo dopo, come anche quello di Marta. Ciao Leonardo. Buonasera, scusate, sono un po' emozionato. No, Leonardo, niente. Via, siamo tra noi. Poca gente, niente, sì. Per me l'argomento della settimana è Berlusconi con Ruby, appunto per dire, ma non per il fatto in sé per sé, ma solo per dire che insomma è un adeguamento di quelli che sono i tempi di oggi, e è il momento di fare un salto in avanti ed accettare questo genere di cose. Ci modernizziamo. Leonardo, fermati lì per favore, che tu sai che a volte ci sono dei collegamenti satellitari un po' difficili e dobbiamo collegarci con Marte, non vorrei che cadesse il collegamento, che abbiamo sempre un punto di vista anche da lì. Riflessioni da Marte. Anche questa settimana, dunque, guardando qui da Marte, si è visto chiaramente che il mondo non si è fermato mai un momento, come confermava del resto senza alcun dubbio Jimmy Fontana. Il mondo non si è fermato mai un momento. Ecco, ce l'ha appunto riconfermato ancora una volta, se non si stanca mai di confermarlo. Dunque, gira sempre vorticosamente questo mondo, come una giostra impazzita. Ma fra tutte le innumerevoli notizie di questi giorni, tra tsunami, bunga bunga, monnezza, minacce terroristiche, la vera notizia d'impatto internazionale, direi di risonanza mondiale, è stata la triste scomparsa del polpo Paul. Sapete, no, quel tipo tentacolare originario dell'Isola d'Elba, tra l'altro, qui si conferma il genio italiano, che aveva azzeccato i risultati delle partite dei mondiali. Ebbene, il povero polpo ha ceduto allo stress. Sì, un esperto proprio di polpi ha detto che il cefalopode più famoso del mondo non ha retto allo stress. Succede del resto anche agli esseri umani, no? Uccisi a volte dai riflettori della ribalta troppo accecanti, dal troppo successo. E così anche il povero Paul, dopo aver riscattato, diciamo, il significato negativo che nei decenni aveva assunto il termine di piovra, se n'è andato senza una parola, come si confà del resto a un vero polpo, così. Una volta che c'era qualcuno, diciamo, di lungimirante, che magari avrebbe potuto anche rivelare in anticipo chi vincerà nella lotta tra il bene e il male, o anche più modestamente chi vincerà nelle prossime elezioni italiche, insomma, niente, se ne vanno sempre i migliori, come si dice. Ma si sa, morto un polpo se ne fa un altro, e già si parla del successore, un francese nativo di Montpellier, questo nuovo polpo. Ma noi vogliamo immaginare ora la piovra Paul beatamente fluttuante nel paradiso dei polpi. Bolle, mille polle blu, blolle, per intorno a me bolle, mille polle blu che volano, e volano, e volano. E ora d'accordo, va bene, veniamo pure al punto della notizia che ha creato in terra italica, con risonanza internazionale, una vera bufera. Come sempre qui le cose si esagerano, si manipolano, si strumentalizzano, ed ecco invece il vero scoop, che non è altro che la semplice verità. Colui o colei o coloro che abbiano riferito di un misterioso, seppur inequivocabile, rito di bunga bunga consumatosi in dimore altisonanti, sono in realtà, diciamolo, caduti in un malinteso fonetico, una confusione, si potrebbe dire, di consonante, e non si sono resi conto che ai parti in questione era presente Gianni Morandi, che stava semplicemente scaldando la voce per il prossimo Sanremo, sapete, no, che lo condurrà lui, e non diceva affatto in realtà bunga bunga, bensì questo, sentite. Giunga giunga giunga giunga giunga la la la la giunga giunga giunga giunga giunga la. Qua sempre, siamo lasciati poco tempo, Roberta Giordano sempre è con voi sino alle 15, e c'è come mia opinionista estemporanea la giovane Marta Marat, scrittrice esordiente di 18 anni, L'assassino nero, la saga di Esmeria, si chiama il suo primo libro. Prima di approfondire allora la notizia che più ha colpito Marta questa settimana e anche di Leonardo da Ferrara, volevo fare un breve accenno a un disegno di legge che forse è una proposta bipartisan o bipartisan, come si dice, che finalmente potrebbe passare nelle prossime settimane, sulle quote rosa nei CDA delle aziende, nei consigli di amministrazione. In realtà poi si sono mosse molte voci polemiche, soprattutto da parte di uomini, pochi per fortuna in Parlamento, le donne quasi tutte d'accordo, e perché se si parte i blocchi di partenza con gli uomini sempre davanti e le donne sempre dietro, è chiaro che poi vincere è facile in questo modo. Quindi secondo questa proposta nel CDA ci dovrà essere una presenza del 30%, ci si accontenta di poco, però tanto per iniziare, del 30% di donne, pena sanzioni, prevede questo disegno di legge, che vanno fino alla decadenza del consiglio, per chi non si adegua, del consiglio di amministrazione, naturalmente, di queste aziende. Aziende pubbliche, aziende partecipate, consigli di amministrazione di aziende quotate in borsa. E qualche donna giustamente ha detto a chi, pochi dicevo uomini che si sono mostrati contrari, che dicevano ma questa cosa è incostituzionale, diciamo, la cosa più incostituzionale è proprio la disparità tra i sessi, che tra l'altro parità tra i sessi è sancita da un articolo della Costituzione, che è l'articolo 51, che prevede da molto tempo, quanto è vecchia la Costituzione, di rimuovere appunto gli ostacoli che possono portare alla parità tra donne e uomini. È una cosa che ti interessa questa, Marta Marat? Beh, direi di sì, comunque da donna. Senti, invece per quanto riguarda, quindi dicevi la notizia che più ti ha colpito, dicevi proprio perché ragazza, è questa storia di Ruby. Come la vedi tu? Vedo adesso un'agenzia dell'ultimo minuto dell'ANSA che dice Bersani, è stato tradito il ruolo pubblico, il premier si deve dimettere. Secondo te si deve dimettere? Addirittura non saprei, perché il fatto è che comunque uno legge un giornale che dice una cosa, ne legge uno che dice un'altra, uno non riesce a dare un giudizio così diretto. Allora facciamo così, guarda Marta, io ho qui due giornali molto diversi tra di loro, c'è il Corriere della Sera e c'è, vediamo se lo ritrovo, Libero. Allora io ti leggo il titolo dell'uno, il titolo dell'altro, e brevemente un editoriale che si riferisce a questo argomento, e tu mi dici quale senti più nelle tue corde. Va bene, facciamo così? Certo. Ecco. Allora, Corriere della Sera, titolo è questo. Ecco in prima pagina, primissimo titolo, ecco la telefonata del premier in questura. Quella ragazza è una parente di Mubarak, affidatela alla Minetti. Si riferisce a Nicole Minetti, la consigliera regionale del PDL. Sì. E poi l'occhiello è il caso di Ruby, la minorenne al centro di una nuova bufera politica. Il presidente del Consiglio dice mai fatto pressioni. Allora, qui l'editoriale è affidato a Massimo Franco del Corriere della Sera, si intitola L'autunno del governo. Te leggo proprio pochissime righe iniziali. E dice: verrebbe spontaneo usare le ultime imbarazzanti rivelazioni sulla vita privata del premier per sancire il tramonto della sua leadership. In realtà si tratta di vicende da maneggiare con molta cautela, scrive Franco, sebbene non con reticenza, e da affrontare sapendo che forse sono la metafora di una crisi politica prima che morale. Questo per quanto riguarda proprio l'inizio del Corriere. Prendiamo Libero. Il titolo, sempre di apertura, è L'Elisir di Bunga Vita. Berlusconi è come la Caritas, io farò il carabiniere, dice intervista a Ruby. Sotto l'orgoglio del cavaliere per le feste in villa, amo le donne, questa è la mia vita, non cambierò. E qui tra gli editoriali c'è questo di Mario Giordano, con cui non sono imparentata. E, il titolo è Nel giorno più buio Silvio ritrova l'energia, ti leggo proprio l'inizio anche qui. Scrive Mario Giordano: e comunque la gnocca fa bene, è ufficiale, almeno a Berlusconi. Appena gli hanno tirato in faccia l'ennesima manciata di fango in Gepierre, il premier si è come scosso, ha ritrovato nuova energia e nuova carica. Se qualche giorno fa Libero titolava Silvio svegliati, adesso potremmo titolare Già fatto, è bastato un po' di bunga bunga e via, ecco di nuovo in pista, cazzuto e grintoso come da qualche settimana non era. Quale ti senti un po' più in linea col tuo pensiero? Ma sei particolare, tutti e due, uno lo sento come più ironico e mi fa più ridere, non so come dire. L'altro assolutamente vero che c'è una crisi politica, ma anche morale, nel senso se negli altri paesi fosse successa una cosa del genere, da mo, come si dice a Roma, che Berlusconi si sarebbe dovuto dimettere. Quindi è anche morale, nel senso, va bene, ci fa fare certe figure internazionali in un certo modo, come guardando il seno alla moglie di Obama e tutto il resto, allora non so, perso il filo. Marta, sentiamo invece, visto che era in sospeso, sempre il numero verde 800 24 00 24, per i vostri commenti sui fatti della settimana, dicevamo Leonardo da Ferrara. Eccoci Leonardo, finalmente, grazie della pazienza. Buonasera di nuovo. Sì, buonasera a te. Niente, io allora, premesso che non sono di quell'area politica, ecco. Quale area? Dell'area di Berlusconi. Vorrei esprimere la mia dicendo che è il momento di fare un passo in avanti, nel senso di lasciare. Quindi la di solito si dice un passo indietro, invece dici un passo in avanti. Sono curiosa. Sì, un di passo sapere. In avanti, sì. Dal mio punto di vista, sì. Modesto. Perché ritengo che la camera da letto, insomma, debba essere lasciata fuori dal giudizio di una persona politica o comunque di un industriale, di una persona che riveste un ruolo pubblico, che sia esso istituzionale o no. Le persone devono essere giudicate da quello che fanno in relazione, diciamo, alla loro funzione. Abbiamo un formidabile strumento che sono le elezioni. Se riteniamo che, diciamo, il suo operato è stato positivo, lo rivoteremo. Se è stato negativo, non lo rivotiamo. Però, insomma, queste cose qui io penso di lasciarle. Ma dimmi una cosa, Leonardo, secondo te, al di là di tutto, insomma, no? Che si chiami Berlusconi o si chiami Zampini, che ne so. Certo. Ecco, la vita privata di un uomo così pubblico, di un uomo che governa un paese, è privata quanto quella, non so, di un salumiere o di un avvocato o di una insegnante? Ma tutto cosa. Sommato io penso di sì, nel senso, siamo tutti uomini o donne, ognuno ha le sue. Allora ti faccio un'altra domanda, Leonardo, però rispondimi sinceramente, certo. Guarda che lo sento dalla voce, se sei sincero. Allora, come sempre. Ecco, se al posto di Berlusconi in Italia ci fosse... No, ho capito, scusi, è saltata un attimo la... Sì, la comunicazione. Immaginiamo, mi senti? Sì. Immaginiamo. Che non sia Berlusconi in questo caso, ma sia per esempio la Merkel. Tu immagina la Merkel in una serie di party, di feste, circondata da uomini nudi, dove fanno, dopo che lei lavora tutto il giorno, e fa il bunga bunga o cose così. E la stessa, tu come la giudichi, la Merkel che fa queste cose e poi dice oh, io però governo un paese, lo governo bene, bene o male, che voi piaccia, non lo so, poi mi voterete o no, però io avrò diritto alla mia vita privata. Voglio che tu sia sincero, dimmi come la giudichi. Assolutamente sincero, non vorrei sorprenderla. Io ripeto, rimango dell'idea che insomma la signora in questione, se quelle sono le sue, se in quel modo si riposa, si ritempra dopo le fatiche della settimana, io cioè cosa potrei dire? Saranno fatti i suoi. Sei sicuro se ci fosse una donna, non so, alla fine Chiaro, per esempio, fare la presidente del Consiglio. Penso proprio di sì, indipendentemente da chi sia e di quale area politica. Io penso che è il momento di fare un salto in avanti. Voglio fare la malfidente, ci credo, Leonardo. Grazie, certo. Leonardo, grazie. E buona continuazione, spero che tu anche abbia una vita insomma privata che ti soddisfi. Rosario da Siracusa. Allora, ascolti, ricollego alla sua domanda. Sì? Anziché essere Berlusconi fosse un uomo di sinistra. No, una donna, voglio sapere una donna, io non ho detto un uomo di sinistra. Ma è la stessa cosa, guarda. È la stessa cosa, perché il signore che ha parlato prima, lei ha chiesto della sincerità, sì. e le ha risposto, uomo o donna, non c'entra. Quello che c'entra invece, la sostanza è questa. Sentiamo. Siccome Berlusconi, allora va criticato e condannato. Se fosse qualcuno di sinistra, si direbbe subito, abbiamo un presidente del Consiglio che è capace di dirigere questo Stato e in più ha anche i controfagotti. Quanto è bravo, quanto è maschione questo nostro presidente. E si sbilancia anche a dire che ama le donne. Cioè, ma gli uomini amano le donne, ma di che cosa stiamo parlando? Scusa, Rosario, scusami, mi spieghi, perché a me sfugge un po' il concetto. Cosa significa amare le donne, che io non lo so amare bene? Amare le donne è quel processo naturale, sì, che si sviluppa in un uomo e viceversa in una donna. Di amare le donne, ma di che cosa stiamo parlando? No, scusi, mi faccia dire questo. No, ma che vuol dire processo naturale? Se non me lo spieghi non capisco cosa significa amare le donne. È un fatto naturale che madre natura fa sì che un uomo ama le donne e le donne amano gli uomini. Ma aspetta, fammi capire, Rosario, ma uno la ama o ci va a letto o tutto insieme? Non ho capito. Accende, ma chiaramente in un rapporto d'amore, il massimo di questo rapporto d'amore è quando due persone stanno a letto insieme e ci stanno anche bene. Ho capito. Le sinistre di che cosa parlano? Loro hanno in casa Marazzo, ma chi vogliono moralizzare? Ma chi gliela vogliono raccontare? Lui è stato proprio fatto fuori, a parte che era con uno transgenere una volta e non aveva proprio tutta questa serie di... Però vabbè, Rosario, ho capito la tua posizione. 800 24 00 24, Massimo dalla provincia di Bergamo. Ciao Roberta, buona giornata a te. Bene, benissimo. In quest'Italia un po' così, a dire benissimo è un po' dura. Guarda, si salva sempre dicendo abbastanza bene. Abbastanza. Io volevo puntualizzarmi sulla questione rifiuti a Terzigno. Sì. Niente, mi sembra che ormai siamo nell'anarchia più assoluta, che sia il livello decisionale sia legato ormai a quanta violenza o quanto forze metti in campo per la protesta, per protestare e non più alle regole, non più al mandato che abbiamo dato ai partiti di tutti i colori, Massimo, bianco, rosso e verde. Però scusami, ti aggiorno su una notizia che è arrivata proprio ieri in tarda serata, cioè che c'è stato questo accordo tra governo e sindaci vesuviani per non aprire la seconda discarica a Terzigno, che effettivamente... Sì, però ho sentito una notizia mezz'ora fa che dice che il paese dovrebbe essere portata, dovranno portare la spazzatura, ha già cominciato a fare la rivolta. E qua è una cosa incredibile, perché non la porto qua, la porto di là, e mi sembra che non ci sia più una regolamentazione, un disegno Adesso su quale sia esattamente la situazione del paese in cui la dovranno portare non lo so, però chi è stato a Terzigno, che tra l'altro è dentro la discarica, dentro il parco naturale del Vesuvio, anche l'Unione Europea insomma ha richiamato l'Italia in questo senso, che ci fosse una puzza nauseabonda insopportabile da giorni, l'hanno confermato anche lo stesso Berlusconi, ha riconosciuto andando poi lì che era una cosa insopportabile, gli stessi parroci, il vescovo mi pare di Nola, che ha detto questo territorio non si può così maltrattare, bisogna rilanciarlo per il turismo, per l'agricoltura, per una serie di cose. Quindi non era un semplice, insomma, noi no, guardiamo il giardino nostro, mandatelo da un'altra parte. Il disagio era effettivo, poi hanno riconosciuto se si è arrivati anche a questo accordo, tra l'altro, no? Esempio di Trezzo sull'Adda. Non ho capito, Massimo. Faccio l'esempio di Trezzo sull'Adda, siamo nella stessa situazione. Abbiamo un inceneritore da 8 anni a Trezzo sull'Adda e logicamente la regione Lombardia la nostra provincia richiede ulteriore ampliamento. La gente qua è tranquilla, sembra che assorbi la cosa perché tanto lo fanno, nel discorso tanto lo fanno e non fa niente. I politici a una riunione settimana scorsa logicamente dicono no, abbiamo chiesto di poterlo fare ad opera alla Chiarella in altre zone, però si sono rivoltati e logicamente adesso vedremo, forse non si fa qua, però se c'è la necessità, allora tutto dipende dal livello che io d'arrabbiatura, allora cominciamo a fare le guerre. Ma se io dico se una cosa è stata fatta in un territorio, Trezzo ha già dato, logicamente valutate altre situazioni e valutate di cercare di farlo dall'altra parte. Massimo, ti ringrazio. Se qualcuno vuole cogliere anche questo argomento, speriamo non sempre di contrapposizione tra nord e sud, comunque il numero verde è sempre 800 24 00 24. Marta Marat, che ha già esposto diverse sue idee sulle notizie della settimana, una in particolare. Senti, ci sono sempre adesso tanti ascoltatori al numero verde 800 24 00 24. Quindi fra le varie cose che abbiamo sentito, per esempio due ascoltatori, tutte e due che dicevano questione di vita privata, questa storia di Ruby e delle altre feste e delle donne presenti in queste feste, dicono che sarebbe stata la stessa cosa con una premier, una presidente del consiglio donna, ho i miei dubbi, ma insomma voglio crederci, non voglio fare quella che non ci crede. Ci sono molte altre telefonate, tu Marta però volevi commentare qualcosa quanto è stato detto? Innanzitutto, se uno è un premier di un paese, rappresenta il paese. Comunque, agli altri paesi hanno un'immagine di noi che non è positiva. Anche l'altro giorno ho visto un commento di un giornale spagnolo in cui mostravano le immagini della nostra televisione, che Berlusconi comunque dirige, quindi non è semplicemente sfera privata, è proprio la filosofia di Berlusconi che sta diventando dilagante, che non ci fa fare bella figura da nessun punto di vista, ma a tutti gli italiani, non è soltanto lui. Marta, ti volevo, cambiando un attimo discorso, anche se siamo sempre un po' diciamo sulla sessualità, ma anche sull'amore in realtà, sempre una polemica che era iniziata questa settimana, poi è stata completamente travolta da quest'altra, era su Rocco Buttiglione dell'UDC, no? Che ha detto in una trasmissione radiofonica, Un giorno da pecora, ha detto essere gay è sbagliato, è come essere evasori fiscali. Dopo si è un po' corretto, dice sì, ma no, io avevo elencato una serie di questioni che non sono perseguibili per legge, ma sono moralmente sbagliate, come l'adulterio, come trattare male le persone. Spero che trattare male le persone possa essere in qualche modo a certi livelli anche perseguibile. Comunque diceva è moralmente sbagliato. E questa cosa, fra l'altro, gli era costata anche, non so se tu ricorderai, eri forse piccina, nel 2004 poteva diventare vicepresidente della Commissione Europea, però disse che l'omosessualità è un peccato anche se non è un crimine, e essendo piuttosto laica l'Unione Europea disse vabbè, forse è meglio prendere qualcun altro. Tu che cosa ne pensi? Che sia moralmente sbagliato essere gay? Ma non penso proprio, a parte il fatto che io sono comunque cresciuta con studi classici, quindi so benissimo il fatto che nell'antichità era normalissimo, adesso faccio un attimo un salto temporale, sì, ma era la cosa più normale del mondo. Poi i tempi si sono evoluti ed è diventata una cosa scandalosa, tenuta nascosta. Comunque non penso che nell'Ottocento, nel Settecento non ci siano stati gay. Io non trovo che sia moralmente sbagliato, è una cosa che una persona si sente e quella sì che è una cosa privata, a meno che uno non vada a dare fastidio con le sue, diciamo, esplementandosi gay davanti ad altre persone, quelli da fastidio, con le esagerazioni, ad esempio Platinette, eccetera, lì posso capire che qualcuno dica è moralmente sbagliato fare certe cose, ma è una cosa lì veramente privata. Non penso che si possa giudicare una persona nella sfera. Tra l'altro, segnalo che Nicky Vendola, tu sei presidente della regione Puglia, che hai dichiarato, ha detto questa settimana, rispondendo alla questione di Buttiglione, in realtà nel Parlamento ce ne sono tantissimi e non lo dicono, e lui è protagonista della copertina dell'Espresso di questa settimana. Mi sorprendeva anche un po' l'allarme della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, l'organo dei Vescovi, che dice famiglia destabilizzata da fisco, c'entra sempre il fisco, divorzi e dall'unione gay. Queste unioni gay sono sempre un po' rapportate al fisco, non si capisce bene questa. Però mi chiedo, se la famiglia è destabilizzata dai divorzi, quindi da persone che si separano, perché non possono stare insieme invece le persone che vogliono stare insieme dello stesso sesso? Così, una domanda che mi veniva lì per lì. 800 24 00 24, Francesco dalla provincia di Cuneo. Francesco. Buongiorno. Buongiorno a te. Io volevo riagganciarmi al discorso che lei faceva prima, se la Merkel sarebbe giudicata diversamente se fosse scoperta a fare quello che ha fatto Berlusconi. E non per essere volgare, ma avrebbero detto che era poco di buono a dir bene. Cioè. Che è un termine proprio, diciamo, un eufemismo rispetto, esatto, vero? Esatto, perché siamo in radio. Sì, avrebbero detto che è una donna, è debole, manipolabile dagli uomini. No, avrebbero detto altre parole che iniziavano magari per P, per T. Esatto. Più che fare tutti questi discorsi un po' complessi. Costretta forse a dimettersi. Cioè, sarebbe dovuta andare via dalla vergogna. Noi abbiamo questo... Io parlo da ex elettore di centrodestra. Ormai sono, non so, neanche dire disperato, non so chi votare, perché questa persona è, non so, è uno della banda Bassotti. Quando hai votato l'ultima volta centrodestra? Non a questa elezione, quelle prima ancora. E le a ultime? Devo ammettere che ho votato Grillo. 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle. Forse un voto sprecato, non lo so, ma lo butto lì. Se l'hai sentito. Però questa persona è incredibile, cioè la fantasia supera la realtà. Queste feste, le donne, i regali, gli intrighi politici, cioè il mondo ci vede davvero come, non lo so, le percotate. Francesco, ti ringrazio e passo subito a Luigi da Como. Grazie Francesco. Luigi? Sì, buongiorno. Buongiorno a te. Io volevo dire, diciamo che dal punto di vista politico la questione, se vogliamo, non rileva. Dal punto di vista dell'esempio che dà, è assolutamente amorale, e questo giustifica la decadenza della società che stiamo vivendo. Per rispondere al discorso della Merkel, diciamo che oltretutto c'è il fatto che da noi le cose vanno malissimo. In Germania magari mi vanno un po' meno male. Vabbè, mi raccomando, dopo la Merkel mi manda una querela, una denuncia. Io ho citato la Merkel perché in questo momento in Europa, diciamo, è l'unica a quel livello, in quel ruolo, no? Ecco, fosse una donna. Se avesse fatto la Merkel, diciamo, sarebbe stato ugualmente morale, ma forse la gente sarebbe stata più disposta a tollerare, perché comunque era comunque già interessata alle sorti del paese. Qui invece sembra che le sorti del paese non interessano, interessano più la casa di Monte Carlo, la Ruby, tutte cose che alla gente comune, quale noi siamo, non siamo assolutamente interessati, e quindi non vediamo nient'altro che una decadenza delle istituzioni, solo questo. Grazie Luigi. Marina, che chiama da Sondrio, sempre al numero signora. Verde. Buongiorno e grazie. Marina, a te, sì. Io volevo dire, sì? La notizia riguardo la dichiarazione che Marchionni ha fatto da Fazio domenica scorsa riguardo alla Fiat, ecco che in altri paesi del mondo produce più utili e si potrebbero anche chiudere delle fabbriche in certi Italia. Punti, ecco, che la Fiat forse, per la Fiat forse sarebbe meglio, ecco, questa è la notizia che io dico. Questo è quello che ti ha colpito, ma in positivo e in negativo, che cosa commenti a queste parole di Marchionni che hanno anche questo suscitato molto, insomma, strascico polemico? Non è semplice, dalla parte degli operai ovviamente hanno ragione. È chiaro, dalla parte della Fiat forse, ha capito signora? Certo, se io fossi un operaio sicuramente reclamerei a tutto spiano. Quindi tu non sai bene da che parte stare, Marina. Insomma, è difficile, certo, oggi come oggi forse è meglio tenere gli operai, è chiaro. Marina, parlando, è chiaro che Marchionne, lavorando alla FIAT, doveva parlare così. Ha fatto il suo mestiere, dici. Ma vediamo, grazie Marina, se ci sono altre ascoltatrici e ascoltatori. È una posizione effettivamente, devo dire con molta sincerità, difficile, anche per quanto mi riguarda, su questo argomento, perché poi i sindacati, per esempio, dicono la FIOM, però Marchionne fa i paragoni con la Germania, ma in Germania sono più pagati e lavorano meno. Insomma, mi piacerebbe sì avere una posizione molto netta sull'argomento. Se c'è qualche ascoltatore che ce l'ha, ben volentieri, il numero verde 800 24 00 24. Tra pochissimo ci sarà Stefano Andreoli, spinoza.it, satira gogo. E dunque, come promesso, eccoci al gran galoppo con il nostro geniale, chiamiamo geniale che così è contento, Stefano Andreoli, il geniale creatore di Spinoza.it, sempre Roberta Giordano con voi, sempre mio opinionista estemporanea, d'eccezione oggi, la scrittrice diciottenne esordiente Marta Marata col suo L'assassino nero. Ma adesso concentriamoci su questa fotografia della settimana che adesso ci scatta Stefano Andreoli, siamo tutti orecchie, Stefano. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a te. Cosa tu vuoi che io dica? No. Io non pronuncerò queste parole. Non io grazie. Sai che mi piace l'imprevisto, non ci accordiamo mai su cosa, non cosa, in libertà, prego. Sì. Infatti, però non si può non aprire con la storia di questa cubista, Ruby, ora tutti ne parlano, il cubo di Ruby, una scemenza per cominciare, così per scaldarci. Orge, festini, minorenni a casa di Berlusconi, si dice, ma secondo me è la solita montatura per fargli guadagnare consensi, e sono quelle cose che un po' lo avvicinano alla gente. Può darsi, infatti, qualcuno sembra che gli abbia fatto acquisire ulteriore simpatia, insomma, vabbè, questo certo, ma siamo italiani, insomma, la giovane aveva detto di avere 24 anni, praticamente tra loro pensavano di essere coetanei, cioè è fantastico. Berlusconi però ha negato ogni accusa, non c'è nulla di illegale, ero consenziente, ha detto Berlusconi, per cui... Ero consenziente, certo, Berlusconi era consenziente, questo taglia un po' la testa al toro. Poi ha detto che in casa sua, Berlusconi, entrano solo persone per bene, bisogna vedere però come sono quando escono, cioè questo bisogna relativizzare. Ma abbandonerei questa storia riuscendo a evitare il pericolo tormentone, venendo a un fatto molto più triste: Capezzone colpito da un pugno. Quando si è risvegliato era dell'UDC, perché Capezzone... ultimamente quel volta faccia non gli è riuscito, l'ultima volta faccia, questa volta l'ha preso in pieno solidarietà poi dopo, insomma, che è un po' così un percorso piuttosto articolato, questo vabbè un altro paio di mani. Lasciamo anche questo argomento. Triste, gli Stati Uniti buttano statistica esattamente la metà del cibo prodotto, gli americani, questo è molto la triste, metà del cibo prodotto. Giurano gli americani che non ce la fanno proprio a mangiare più di così, cioè si stanno sforzando ma non ci riescono. Il 50% del cibo americano viene buttato, ma con una buona campagna di informazione si potrebbe arrivare anche all'80%, quindi bisogna cercare di insistere su questo tema. È effettivamente uno spreco con tutti quei soldi, chissà quante armi avrebbero potuto produrre, quindi in effetti si sa che i soldi vanno destinati agli scopi più adatti, più nobili. Poi, esatto, direi che qui possiamo chiudere anche questo. In arrivo la stampante, questa è una notizia curiosa, la stampante che riproduce gli odori è arrivata, si potranno riprodurre gli odori. Quindi se uno non sa cucinare, come nel mio caso, posso riprodurre un odore, che so, di arrosto, no, con patate. Sono frontiere incredibili, arrosto, patate, odore di cibo, odori buoni, ma anche odori meno nobili. Per esempio lo scherzo di fotocopiarsi il sedere potrà avere nuove frontiere, appunto. Perdi tempo, proprio, sì. Chiudiamo con, visto che siamo in tema un po' di bagaglino, senza offendere il bagaglino, ciclismo, ecco, dopo il doping Contador, nuova scoperta, anche il Viagra sarebbe utile per migliorare le prestazioni sportive dei ciclisti. Chi l'ha detto? È stato provato che il Viagra aiuta soprattutto nelle volate. Mi sono chiesto perché, poi ho pensato che spesso alla volata dei ciclisti è questione di centimetri. Direi che sì. Posso salutare. Che sì, chiudiamo ogni possibile spazio, ogni centimetro per Stefano Andreoli. Grazie Stefano, come faremo senza di te? A sabato prossimo, ciao. Ciao Stefano. Faremo, direi, quasi benissimo, no, come faremo davvero senza Stefano, però adesso abbiamo un altro appuntamento importante che non possiamo assolutamente eludere, ed ecco qui, la presentiamo con il suo spazio, la sua, proprio lei sì, è Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, straordinaria linguista del resto, faccio bene a dire così Valeria, pom po' i miei ospiti. Valeria, a te sottoporrei questa espressione che mi è molto cara, anche se vorrei che non ve ne fosse bisogno e che tutto fosse già più lineare e paritario, delle quote rosa, no? Dicevo all'inizio che c'è questa proposta di legge che sembra che entro poche settimane dovrebbe passare. Quote certo. Rosa è un po' che se ne parla, rosa, come ce lo interpreti? Allora, ovviamente me ne occupo dal punto di vista dell'espressione certo. Che si è diffusa nella lingua italiana negli anni 90. Questo è uno dei casi nei quali l'espressione si è imposta, anche se dal mio punto di vista io credo che non aiuti molto la causa. Perché lo dico? Perché intanto questa espressione è stata formulata modellandola su quote latte, e poi perché quel rosa, che in alzato a simbolo un po' sdolcinato, un po' lezioso del mondo femminile, inchioda poi a un dire, ruolo non aiuta così. Molto, però, sì. Però c'è cioè un però, insomma io sono la prima a essere convinta che una volta che un tipo di parola o di termine o di espressione oramai è più o meno accolto, insomma sarebbe velleitario e antistorico proporre altre denominazioni magari più adatte, soprattutto il fatto che le quote rosa si prestano molto proprio nel nome a essere sottoposte o a farsi indirizzare delle facili ironie maschili. E ancora, insomma, le quote rosa teniamocele quindi bene da tutti i punti di vista, che oramai sono accolte almeno nei vocabolari, se non nella politica e nel lavoro. Grazie Valeria Della Valle, come non accoglierti sempre con grande piacere, grazie Valeria. E adesso, mentre Marta Marat, la nostra scrittrice diciottenne col suo L'assassino nero, pensa a un'altra notizia che magari non ha avuto modo di commentare, oppure a una conclusione, visto che ci avviciniamo alla fine, io sentirei l'ultimo ascoltatore, purtroppo non abbiamo più tempo, all'800240024 c'è Francesco da Roma. A te Francesco, sinteticamente. Sì, buonasera. Buonasera. Innanzitutto una frase che ha detto Berlusconi: io sono un uomo di cuore. Sì. È una frase che già 200 anni fa aveva detto Don Giovanni nell'opera famosa del 1787. Quindi questo forse dopo 200 anni stiamo. Quindi vuoi dire più... la reincarnazione di Don Giovanni? Tu? No, però insomma, sì, adattata ai nostri tempi, ma soprattutto per un altro fatto. Non ho assolutamente nulla contro le ministre e contro le donne che stanno al governo, anzi, penso che abbiano operato bene. Però a questo punto la commissione tra pubblico e privato che Berlusconi ha dato, è chiaro che viene da porgersi la domanda: ma come ha scelto queste donne? In base a quali criteri? Ripeto, non ho nulla contro le donne, anzi, ne avrei volute di più, ma in base a quali criteri le ha scelte? Questo è il punto, perché davvero viene da chiederselo, non è più una domanda capziosa o in malafede a questo punto. Ma vabbè, adesso sulle ministre, in particolare le ministre, poi ognuno giudicherà sull'operato, però tu appunto, rispetto alla domanda che ho fatto prima, che non è una domanda così capziosa o peregrina effettivamente, no? Perché in Italia è ancora un paese, diciamo, in modo preponderante maschilista, indulgente verso, al di là poi della questione politica, chi rappresenta il privato, che non è privato, per chi ricopre un ruolo così importante ma è pubblico. Comunque fosse stata, avevo detto all'inizio, la Merkel o un'altra donna, che so, prendiamo la Finocchiaro o la Bonino, che sono quelle che ultimamente, così, ma sempre in passant, poi alla fine non si concretizza mai niente, si erano ipotizzate potessero diventare prima o poi, che cosa pensi, che cosa niente, non c'è te Maria Bernardi, mi dice che siamo, scusami Francesco, purtroppo magari lo riprendiamo, perché può darsi che ci siano strascichi anche per la prossima settimana. Marta Marat, una tua conclusione o un commento, quello che vuoi. Un commento. Rito finale. In quanto donna comincio anche un po' a scocciarmi di questa politica, che ci sono anche persone che adesso si mettono a chiedermi: ma non è che magari ti pubblicano soltanto perché magari sei carina? Io non è che sia una bellissima. Carina, però... carina, ti ho vista, direi apprezzabile, sì, però insomma. Mi sembra... Un po' mi dà fastidio questa politica, queste idee. Io in realtà amo le donne, non voglio cambiare, non ami le donne, semplicemente è una cosa di sesso, non è che le. Hanno delle qualità particolari, non so come dire, mi dà un po' dai nervi da donna questa cosa, che in particolar modo le donne adesso siano più, sono oggetti, non sono intelligenze o personalità dietro. Marta Marat ha 18 anni, mi sembra che però prometta molto bene. Il suo libro L'assassino nero, la saga di Esmeria, infiniti auguri Marta, ci sarà occasione di risentirci. Ciao, grazie da Roberta Giordano. Appuntamento naturalmente il prossimo sabato alle 14, intanto sereni orizzonti a tutti.